Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, benvenuti a Magazine 24. Sabato 13 agosto, ci avviciniamo a grandi passi verso il Ferragosto, momento consacrato alla festa, anche se i mercati, le speculazioni non ci danno molto modo di riposare. Io vorrei cominciare, visto che siamo davvero in un fine settimana, così di solito dedicato anche allo svago, con qualche cosa di svago. Allora, innanzitutto facciamo una cosa che non facciamo mai, cioè cominciamo mettendo magari un po' di musica. Io chiedo a Pietro Lacorte, che questa mattina mi aiuta in regia, di farci ascoltare il brano che abbiamo preparato. Prego, Pietro. Allora, questo è il Modern Jazz Quartet. Come sapete, da diverse settimane con il Sole 24 Ore stiamo proponendo questa collana dedicata ai miti del jazz. Questa volta l'uscita da giovedì scorso è dedicata appunto al Modern Jazz Quartet, e quella canzone di cui abbiamo ascoltato una parte è Delaunay's Dilemma. Il Modern Jazz Quartet, lo dico per chi non è conoscitore di questo tipo di musica, è nato proprio come un progetto di jazz, un progetto musicale vero e proprio, perché l'intento di questo quartetto jazz, attivo diciamo tra il 52 e il 75, anche se formalmente poi si considera chiuso con il 1999, quindi una carriera lunghissima. Questo intento, dicevo, era quello di mescolare elementi del bop, dello swing, del blues, però con un contesto quasi da musica da camera in qualche modo. E perché? Perché questi quattro signori si erano resi conto che la musica jazz cominciava un po' ad assomigliare tutta a se stessa, cioè c'erano degli standard che venivano eseguiti, e allora questi erano un pianista, un vibrafonista, un bassista e un batterista, decisero di dare vita a un progetto musicale un po' più complesso. Caratteristica del Modern Jazz Quartet è questo vibrafono che sentite molto presente, e il vibrafonista che è una celebrità per i cultori del genere, si chiamava Milt Jackson. Gli altri componenti del nucleo storico sono il pianista John Lewis, il bassista Percy Hurt e il batterista Connie Kay. Sentiamo ancora un minimo brano e poi partiamo con le segnalazioni. Allora sfumiamo il Modern Jazz Quartet, ma restiamo in ambito moderno. Moderno perché proprio l'aggettivo moderno è quello scelto da Airone nel numero in edicola in questi giorni, numero chiaramente mensile di agosto, per descrivere l'italiano che parliamo adesso, l'italiano del futuro o l'italiano moderno. Ovviamente è un italiano che abbonda di abbreviazioni, il famoso TVTV, che oramai è diventato un po' un modo di dire corrente, ma anche il 6 usato con il numero e non con le lettere, o anche la lettera K, che in realtà in italiano non sarebbe moltissimo utilizzata e che invece è diventata una lettera diciamo di uso corrente nello scritto, specialmente grazie ai messaggini, agli SMS. Allora c'è una inchiesta all'interno di Airone che parte proprio da questo titolo un po' ambizioso, dice: tra 100 anni parleremo così. Come parleremo? Parleremo in un modo più facile, più ricco di parole prese a prestito dalle lingue straniere o dai dialetti, e magari accetteremo anche l'uso dell'apostrofo quando non è richiesto. C'è una diatriba, diciamo, tra i puristi che non accettano assolutamente che si scriva qual è con l'apostrofo, e devo dire anche io personalmente trovo un po' sgradevole leggere un quale con l'apostrofo, ma peraltro bisogna dire che è sempre più frequente incontrare dei testi scritti in cui ci si imbatte in apostrofi fuori posto. Forse addirittura, secondo i linguisti che ha interpellato Airone, finiremo per mettere l'apostrofo anche davanti ai nomi maschili quando usiamo l'indeterminativo, e quindi scriveremo un amico con l'apostrofo per fare prima, oppure lo toglieremo anche dai femminili e così risolveremo in radice, come si dice, tutto il problema. La questione, per dare ancora qualche minima indicazione su questa inchiesta che è abbastanza articolata, la questione sostanzialmente è che la nostra lingua sta subendo negli ultimi due secoli un processo di trasformazione, di aggiornamento che non aveva subito nei secoli precedenti, essendo rimasta per molto tempo una lingua delle persone colte, mentre le persone meno istruite erano abituate ad esprimersi in dialetto. Naturalmente, prima l'Unità d'Italia 150 anni fa e poi diciamo tutti i processi di industrializzazione, di progresso e infine la radio e la televisione hanno contribuito a introdurre una lingua via via più diffusa e quindi anche ad aprire tutto sommato a dei cambiamenti più frequenti. Vi segnalo che nella versione 2011 dell'ultimo Zingarelli troverete tra le altre nuove parole ad esempio archistar, cioè gli architetti molto famosi, gollonzo, è un termine che in realtà non mi sembra più così in uso, ma è stato adesso benedetto dal dizionario e sta a indicare un gol particolarmente fortunoso, e poi apericena, che immagino, ma non ne sono sicuro, voglia indicare una sorta di happy hour tradotto come dire, con una parola italiana. Sono alcune dei termini che si trovano nello Zingarelli di quest'anno. E allora, da questioni molto, come dire, alte e anche futuribili a una questione molto più leggera, credo che tutti abbiate seguito in modo più o meno attento, naturalmente, la vicenda sentimentale che ha caratterizzato i mondiali di nuoto svoltisi di recente. Mi riferisco ovviamente a Federica Pellegrini e alle vicende che hanno visto coinvolti Luca Marin e Filippo Magnini, e naturalmente la fidanzata poi di Magnini, Cristina Nardini, fidanzata o ex fidanzata, adesso io non vorrei sbilanciarmi su questioni che non sono di mia stretta competenza. Naturalmente i settimanali femminili tornano volentieri sul tema, il tema è molto bello, i due, come dire, il fidanzato, la fidanzata tradita, però lontani, e quindi tutto questo, quello che può stare a significare. Fa una cosa divertente Vanity Fair, raccogliendo una serie di dichiarazioni messe un po' così tutte insieme a miscellanea dei quattro protagonisti. Allora, ad esempio, la campionessa Pellegrini dice: sulla storia con Luca mi premeva dire che è giunta al termine, ma non è vero che esista qualcosa con qualcun altro, questo dice il 26 luglio, e poi ancora quest'estate andrò in vacanza con le amiche e la famiglia, dice il 3 di agosto. Luca Marin che dice: qui qualcuno non ha la coscienza a posto, comunque qui non è il momento di dire la verità, siamo in mondiali, bisognerebbe parlare solo di nuoto, e così via. Magnini che dice: voglio tornare a casa e chiarire tutto, a casa c'è gente che sta male, e così via. E poi la versione naturalmente della fidanzata di Magnini, che dice: ma Filippo mi ha detto che è tutta una balla. Devo dire, Vanity Fair un po' in modo cattivo dice che non è la prima volta che Federica Pellegrini depista un po' i giornalisti sulle sue vicende sentimentali, e tutto sommato, pur, come dire, fatta salva la solidarietà di categoria per i colleghi che vengono così depistati, possiamo anche capirla se non ha molta voglia di parlare delle sue vicende sentimentali anziché parlare delle sue vicende sportive. E quindi la versione finale di Vanity Fair è quella che, insomma, Federica Pellegrini ama un po' buttare negare le cose anche più evidenti, anche quando poi deve fare marcia indietro di lì a pochi, pochissimi giorni. Questo ricordano era già successo con la vicenda di Luca Marin, che era stato, ricorda Vanity Fair, rubato alla rivale francese, alla nuotatrice appunto Laure Manadou, e aveva invece poi si era fidanzato con Federica Pellegrini. Veniamo a un tema molto più serio. Parliamo molto di soldi in questi giorni, parliamo molto di soldi sui mercati, parla di denaro e di denaro pubblico anche Panorama di questa settimana. In Sicilia la cena non è mai l'ultima, spese voltuarie con il denaro pubblico, ci sono alcune spese raccolte da Fabio Ragona su Panorama, in cui si segnala appunto la, come dire, generosità estrema che spesso caratterizza l'organizzazione degli eventi nell'ambito pubblico. Qui poi va forse precisato, l'esempio è fatto sulla Sicilia, ma in altre settimane abbiamo anche segnalato, poi proprio qui a Magazine 24 si era parlato di spese, se non vogliamo dire folli, comunque poco giustificabili da parte di altre amministrazioni, quindi non davvero non possiamo dire che qualcuno sia più avanti di qualcun altro nel utilizzare in modo dubbio il denaro pubblico. Comunque risultano, tra l'altro vi do un paio di cifre: 12.000 euro per una colazione di lavoro, 105.000 euro per uno spettacolo e ancora un'altra colazione di lavoro a 3.500 euro e 5.900 euro invece che vengono stanziati per un cocktail. Noi ci auguriamo che in tutti questi casi, insomma, visto il conto, i partecipanti siano stati abbastanza numerosi da giustificarlo. Adesso ci fermiamo un istante, ascoltiamo le informazioni sul traffico. Magazine 24 ritorna tra poco. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, vi abbiamo parlato di Italiano Moderno, vi abbiamo parlato anche un po' di gossip, perché d'altra parte anche quello è piacevole seguire magari quando si è in vacanza, e poi infine di spese in Sicilia, ma forse proprio la distrazione per darvi qualche indicazione sull'uso discutibile delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche. Abbiamo un po' distratto da una cosa che avevamo invece concordato con Pietro Lacorte e anche con Luca Cremonese, che questa settimana mi ha aiutato a preparare queste puntate, questa trasmissione. Volevo farvi, prima dell'interruzione per il traffico, un test. Sapete che in questi giorni, già da qualche settimana, stiamo proponendo questi libretti, domande e risposte con dei test di cultura, di intelligenza, di logica e quant'altro. Oggi è in edicola, trovate in edicola con il Sole 24 Ore appunto il numero dedicato alla scienza. Allora, in qualche puntata abbiamo già fatto questo giochino in cui io pongo la domanda e do la risposta dopo il blocco del traffico. Naturalmente, essendomelo, come dire, rovinato da solo, non posso far altro che chiedere scusa. Vi faccio lo stesso la domanda, poi vi darò la risposta più tardi, vi do il tempo per pensarci. La domanda è abbastanza semplice in realtà. Dice: quante falangi ci sono in una mano? Bisogna pensarci un momento, ma non mi sembra impossibile. Mi pare una di quelle domande che si possano risolvere, di quelle domande, scusate, a cui si può rispondere con una certa facilità. Vi posso garantire che invece nelle 200 domande che trovate nel libretto in edicola, 230 per la precisione, ci sono cose anche molto molto più difficili. Però per il momento limitiamoci a questo: quante falangi ci sono in una mano. Noi passiamo invece ad un altro argomento. E l'altro argomento è in qualche modo collegato alla crisi, ma in un modo un po' particolare. Da una rivista francese, Nouvel Observateur, apprendo che in America è riesplosa, sarebbe meglio dire, la mania dei coupon. I coupon, o buoni sconto, come li volete chiamare, hanno avuto una evoluzione anche, se volete, digitale. Adesso ci sono dei siti specializzati, ad esempio Groupon, che fanno in modo di fornire dei buoni sconto ai consumatori. Ma quello che colpisce è che appunto in America dal 2008 in poi, cioè dal momento in cui c'è stato il crack Lehman, la gente ha cominciato a collezionare con particolare passione questi coupon che i giornali stampano ancora, stampano molto, a differenza di quello che avviene in altre nazioni. Ci sono proprio delle follie collettive quasi, nel senso che le persone mettono da parte con molta certosina pazienza i coupon e poi vanno alla casa e in qualche modo cercano di battere tutti i record di sconti accumulando appunto i buoni sconto che trovano in giro. Devo dire, se vi sembra una cosa strana, pensate però che anche da noi la grande distribuzione fa un uso abbastanza diffuso di appunto meccanismi premiali, punti e quant'altro, e quindi poi non sono molto dissimili dai sistemi dei coupon. Vi leggo però qualcosa di questo articolo di Natasha Tatou che descrive appunto il couponing, appunto il collezionare coupon che sta appassionando gli Stati Uniti. Dice che appunto si parte soprattutto dai supplementi del fine settimana, dei supplementi dei giornali del fine settimana, e più o meno divenuto, scrive, uno sport nazionale. E ci sono, il principio, spiega, è vecchio come il marketing: per acquisire e fidelizzare i clienti le imprese distribuiscono questi coupon di sconto nei giornali e nelle buche delle lettere, e poi adesso anche con internet e con gli smartphone. Gli esperti dicono che appunto questo è ripartito dall'ottobre del 2008, quindi in perfetta coincidenza con la crisi scoppiata con il fallimento Lehman, e sono stati distribuiti 332 miliardi di coupon nel 2010, che fa 21 miliardi in più di quelli che erano stati distribuiti nel 2009. Se il 78% dei consumatori, di fatto 4 su 5 o 8 su 10 come preferite, utilizzano normalmente e regolarmente i coupon, ed è il 15% in più del dato che era stato invece valutato durante la crisi. Perché vi dicevo prima che è una cosa che è ripartita? Perché già questa mania del buono sconto era esplosa nel 1930, cioè dopo la crisi appunto del 29. Vi leggo solo un paio di storie ancora da questo articolo di Natasha Tatou su Nouvel Observateur. Ci sono proprio, lei dice, dei fenomeni di uso dei coupon estremo. Ad esempio, ci sono delle signore che fanno delle gare. Uno è riuscito a pagare $93 presentandosi alla cassa in realtà con un conto da $1000, quindi ha ridotto di più del 90% il suo importo semplicemente utilizzando appunto questi coupon. E però naturalmente poi ci sono gli effetti collaterali dell'acquisire così tanta roba. È bello farsi fare uno sconto, però si spiega qui che ci sono dei signori che vivono in praticamente con delle cantine che sembrano rifugi antiatomici, piene di conserve, tubetti di dentifricio, cereali, e un signore addirittura, pur di sfruttare tutti i coupon, ha acquistato 115 tubetti di aspirina e 67 confezioni di senape. Sono alcuni degli esempi a cui appunto può portare la mania di ottenere lo sconto, la brama di ottenere lo sconto. Allora, forse è il momento favorevole, il momento propizio per fornire la risposta. Chiedevo prima quante falangi ci sono in una mano. La domanda viene dal libretto Domande e risposte che trovate oggi in edicola col Sole 24 Ore, dedicato alle domande di scienza. Allora, le falangi in una mano sono 14. Sono 14, se volete anche il calcolo preciso, dovete tenere presente che in ogni dito, quasi in tutte le dita della mano, ce ne sono 3. Quindi poi facendo il conto si arriva appunto a questo valore di 14. Questa era la risposta dovuta per accompagnare il volumetto. Tra l'altro, colgo l'occasione per dirvi che questi volumi continueranno a uscire anche nella prossima settimana, non più però due volumi a settimana, ma solo una volta alla settimana. E sembra fatto apposta, e infatti lo è, ma dagli sconti degli americani passiamo agli sconti italiani. Parliamo di sconti sui libri. Allora, forse avete sentito, forse avete letto che è stata approvata una legge dal Parlamento, dal nostro Parlamento, che disciplina il prezzo dei volumi, dei libri. Dal 1 settembre i ribassi sul prezzo di copertina non potranno superare il 15%. Questo come linea generale, perché poi si potrà arrivare al 25% con particolari campagne promozionali. Famiglia Cristiana si interessa di questa novità. La novità naturalmente è stata recepita in modo, come dire, diverso. Già il fatto di condizionare in qualche modo uno sconto, cioè un'offerta commerciale, potrebbe sembrare un po' controproducente. Dedica 2 pagine alla tematica della lettura dei libri e degli sconti sui libri nella sezione che è sempre intitolata Il fatto e le opinioni, che è curata da Antonio San Francesco. Qual è il senso di questo intervento normativo? Il senso è che nelle città italiane le piccole librerie e i piccoli librai fanno fatica a sopravvivere e quindi la concorrenza molto forte dettata dalle grandi catene, che possono praticare chiaramente degli sconti molto forti, molto pronunciati, finisce per dare a queste piccole librerie grandi difficoltà e qualche volta anche il colpo di grazia. Scrive ad esempio Gabriele Salari in un articolo che correda appunto questo servizio: da noi vige la logica di una libreria supermarket dove il libro è un prodotto, quindi la preparazione del libraio poi non ha un valore per i gestori delle librerie, così si lamenta un titolare di una libreria non appartenente a una grande catena. Tra l'altro la concentrazione delle grandi catene, dice sempre questo piccolo libraio che si chiama Fabio Masi, strangola poi i piccoli editori, riduce la bibliodiversità. E c'è anche una scuola a Orvieto, la scuola librai italiani, che ogni anno forma 30 persone, tutti laureati, che apriranno nuove librerie, quindi anche per tutelare in qualche modo il futuro di queste librerie non necessariamente legate a grandi catene, è stata approvata questa legge. Sulla legge poi si confrontano Marco Polillo, presidente dell'Associazione Italiana Editori, e Giuliano Bigini, che insegna sociologia dell'editoria contemporanea alla Cattolica di Milano. La domanda è giusto questo tetto agli sconti sui libri? Marco Polillo dice: senza questa legge, di cui l'Associazione Editori peraltro è stata tra i principali sostenitori, sul mercato resterebbero solo i best seller e senza tutti gli altri libri che invece meritano ugualmente la diffusione. Vigini non ha un parere diverso, sostanzialmente è d'accordo che si possa prevedere questo tipo di tetto agli sconti e segnala peraltro che il provvedimento contempla, dice lui, numerose eccezioni con sconti del 25% per particolari campagne promozionali che però non possono durare più di un mese. Il dato però più importante mi sembra quello che lo stesso Vigini segnala nel finale: purtroppo soltanto il 46% degli italiani legge, e qui non è un problema di prezzi ma un problema di cultura. E questa era l'ultima segnalazione per la puntata di oggi. Vi ricordo che Magazine 24 ritorna domani mattina alla stessa ora. Io ringrazio ancora Pietro Lacorte questa mattina in regia con me, ringrazio naturalmente Luca Cremonese che mi ha aiutato a preparare questa puntata, e mandiamo anche un saluto ad Anita Panizza che invece si sta godendo le meritate vacanze. Se volete scriverci, magazine24@radio24.it, e se volete informazioni su Radio 24 e su tutti i nostri programmi, www.radio24.it. Buona giornata a tutti.